Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. Pensavate di stare già in vacanza, invece non è così. Buonasera a tutti voi da Giorgio Telesforo, qui dal Groovemaster Studio, per un ennesimo appuntamento con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. E lo dicevo proprio ai miei compagni di avventure, pensavate di stare già in vacanza, invece a grande richiesta, ma non da parte dei nostri radioascoltatori, proprio da parte di Radio 24, a grande richiesta, un altro weekend con la grande musica del Soundcheck. Eccoli qui, Silvia Barba e Francesco Tromba in Technicolor. Buonasera a tutti, buonasera a Gegé. Io sono tornata apposta dalle vacanze proprio per questo, te. Questo un po' mi dispiace. No, ma sono contentissima di essere te, qua. Ma sono felicissimo io, anche perché nelle ultime settimane sei stata assente, non so per quale motivo, quindi assente ingiustificata per quanto mi riguarda. No, ero in giro anche per concerti. Faccio anche la cantante nella vita. Però sei stata soprattutto in vacanza. Un po' sì. Vacanze musicali? Anche sì, di amici vari. Che sono, tra l'altro, lo possiamo dire, le nostre preferite, perché quando si va in vacanza, dopo un po', dopo i primi due giorni di stasi, ecco, io sento proprio il bisogno di muovermi e di raggiungere località con palcoscenici montati, bravi musicisti, strumenti, e di sentirmi un po' a casa. Concerti, amici, è vero, è quella. La vacanza per me si intende così. Quindi voglio chiedere al dottor Tromba che cosa farà quest'estate, dopo questo weekend. Beh, spero di avere il tempo di fare un po' di giri per vari festival, soprattutto in Europa, perché in Italia non c'è tantissima roba, c'è poca roba. In Italia non c'è subito la polemica, hai visto? Ma che stai dicendo? È piena di festival questa nazione. Sì, però nomi deludenti, diciamo, certo, già sentiti. Certo, bisogna aspettare, adesso bisogna smaltire tutta la fase delle elezioni, e soprattutto ci sono ancora gli europei in corso. Quando finiranno gli europei partiranno i festival, però qualcuno sta per iniziare, insomma i grandi festival stanno per iniziare, quelli hanno una data, quindi se ne fregano ampiamente se ci sono elezioni o campionati di calcio in giro. Ma noi veniamo alla nostra musica, oggi una puntata speciale, se non altro per il fatto che non era proprio prevista, però la direzione di Radio 24 mi ha contattato e mi ha detto: signor Telesforo, per favore facciamo un altro weekend a grande richiesta. Ma che così, bello. Così riusciamo a organizzare il palinsesto per l'estate, e anticipiamo quindi che dal prossimo weekend andranno in onda le repliche del Soundcheck per tutta l'estate fino a metà settembre, quando torneremo carichi di musica, di note e di novità. Ci stai dicendo che torneremo anche noi? Beh, certo, perché no? Che bello, la Tromba, sei contento? La squadra viene riconfermata perché abbiamo ottenuto dei grandi risultati. Grandi. Cercheremo anche di analizzarne il motivo. Io non so spiegarmelo, però dei motivi ci saranno. Me lo direte voi che siete degli esperti di comunicazione. Io, fino a prova contraria, faccio solo il musicista nella vita. Allora, diamo il via con questo signore che ha un nome che è quasi un codice fiscale, ovvero Keitranada. Che mi sai dire? Che il suo vero nome è Louis Kevin Celestin, è del 1992 e ha origini haitiane e canadesi. Un passato un po' tortuoso, con una famiglia molto particolare, fino a che lui non ha fatto outing, adesso è libero di spaziare per il suo mondo, i suoi gusti, la sua musica, senza preclusioni di alcun genere. Mi piace. La cosa interessante di Keitranada è che lo riconosci subito nonostante la giovane età, ha neanche 24 anni, e già quando ascolti una sua canzone, un suo remix, un pezzo in cui lui ha messo le mani, lo riconosci immediatamente, riconosci i suoi beat. Eccolo qui, Keitranada, il suo sound con Craig David, il brano si intitola Get It Good. Sì, un altro weekend a grande richiesta da parte di Radio 24 per il soundcheck qui dal Groovemaster Studio, il sound di Keitranada. E ora passiamo invece a una sorpresa che ci è stata regalata dal nostro amico Ahmed Sirur, producer americano residente a Brooklyn, che senz'altro io preferisco quando si dedica ai remix piuttosto che alla composizione. Voi che dite? Noi lo avevamo ascoltato, ti ricordi, con quel bel brano di Fare Williams Happy? Sì, devo dire che i remix ci sa fare con i remix. Ci sa fare, poi ha un buon gusto e non ha paura di fare i remix, che ne so, ai successi di Jill Scott piuttosto che Stevie Wonder, ma anche Michael Jackson e i Beatles. Sì, poi il suo approccio è molto interessante perché comunque mantiene quello che è l'idea principale dell'autore, del brano. Sì, non lo stravolge completamente. Non stravolge la parte melodica, anche perché riesce sempre a procurarsi le tracce originali, e quindi i remix poi in qualche modo ricordano sempre la versione originale della produzione. Ahmed Zerour qui si dedica a un vecchio successo di Tribe Called Quest, la band della quale faceva parte il rapper Q-Tip, che adesso collabora con i più grandi, anche con l'amico di Silvia D'Angelo. Bene, che ho detto? Mi batte il cuore quando lo nomini. Ah, ok, allora ti farò una sorpresa più tardi, va bene? Va bene. Va bene, allora che facciamo? Vogliamo sentire questo brano, si intitola Find a Way, questa è la versione di Ahmed Zerour in una versione che lui chiama Reggae Hop Remix, giusto? Sì, andiamo. Sentiamo. Soundcheck, il suono della musica. E fra le novità del soundcheck, due veterani. Naturalmente non potevo non regalare a Francesco Tromba il piacere di riascoltare uno dei suoi artisti preferiti ormai da qualche stagione, Kendrick Lamar con You Ain't Gotta Lie, Mama Said, dal capolavoro assoluto To Pimp a Butterfly, che ha portato a casa tutti i Grammy Award possibili e immaginabili in questa stagione. Purtroppo un artista che ancora in Italia non vedremo. Eh sì, purtroppo non l'ho visto perché non è arrivato neanche, credo, in Europa. È stato solo in Europa, ci è arrivato, però non sono riuscito a vederlo. Sì, credo che lo spettacolo di Kendrick Lamar costi un bel po', eh. Sì, però sono soldi ben spesi, assolutamente. Certo, invece ci fanno vedere sempre le solite cose. Evidentemente il budget va oltre, però secondo me sarebbe strapieno il concerto. Io non so se manca proprio un mercato per questo genere, per quanto il rap e l'hip hop italiano funziona tantissimo. Io vedo che i ragazzi seguono con partecipazione e in massa i concerti dei nostri rapper. Beh, devo dire che lui è preso ad esempio e dovrebbe essere, se il pubblico non lo conosce, dovrebbe essere spinto da chi organizza questi festival e potrebbe portarlo in Italia. Voglio dire, stasera è a Londra e dopodomani è in Spagna, non vedo perché in Italia non possa riempire un bel palco con dei musicisti anche, devo dire, importanti, perché poi c'è tutto uno staff, non è solo lui, quindi uno va a sentire un concerto, va a vedere uno spettacolo. È vero, To Pimp a Butterfly è una grandissima produzione. I migliori musicisti della nuova generazione, tutti quelli che sono a cavallo fra il versante hip hop, contemporary R&B e jazz, perché abbiamo visto che uno dei collaboratori strettissimi di Kendrick Lamar è stato Kamasi Washington, che anche lui ha raggiunto delle vette altissime per il jazz contemporaneo. Ma poi anche lo spettacolo che ha fatto durante i Grammy, lo spettacolo che ha fatto in televisione al Jimmy Fallon Show, è veramente una performance totale, non è solo musica. Quindi Kendrick Lamar possiamo considerarlo uno dei punti di riferimento del contemporary R&B o comunque della black music di oggi. Sì, assolutamente, è diventato fondamentalmente un profeta, potremmo dire, per alcuni tratti. Ecco, se Kendrick Lamar per il nostro Francesco Tromba è un profeta, altrettanto possiamo dire di D'Angelo per la signorina Silvia Barba. Io non lo so se è un profeta, comunque è un bel vedere sempre, è un bel sentire, sì. Beh, un bel vedere, non lo so, ma tu sei andata a vederlo dal vivo? Certo, lo scorso anno era in Italia e tra l'altro a quel concerto ho conosciuto Tromba. Ma io credo che tu sia platonicamente innamorata di questo D'Angelo. No, mi piace la sua grinta, la sua... Io l'ho visto dal vivo, è strepitoso, è uno dei miei musicisti preferiti, un eccellente compositore, anche lui ha stravolto proprio l'ambiente del contemporary R&B, dopo J. Dilla, ecco, ci sono D'Angelo e probabilmente Kendrick Lamar che rappresentano il futuro anche del genere. Però fisicamente, mia cara Silvia, lo vedo un po' appesantito. Ma non ha importa. Più quegli addominali scolpiti che mostrava nelle copertine dei dischi di qualche anno fa, che mi mettevano un po' in imbarazzo. Anche invece adesso è accessibile. Il signor D'Angelo è anche un po' pigro, ecco, e lo si vede perché ha realizzato soltanto 5 dischi, cioè 3 dischi in studio e 2 live, anzi uno live e uno è un bootleg. Si dice che senta molto la pressione del jet set. Eh sì, perché è un ragazzo sensibile, vero? Sì. C'ha un bel sorriso. Un bel sorriso. Ma si veste male. Allora, guarda, ti dedico questo brano. Il brano si intitola Sugar Daddy, che è il brano io romanticissimo, hai scelto il più romantico, grazie. Certo, per te. Io quando sentii questo brano, lo sentì prima della pubblicazione del disco, ero a Los Angeles, ho avuto questa fortuna e andai a vedere il concerto di D'Angelo e Mary J. Blige. E rimasi proprio folgorato dal groove creato da Chris Daddy Dave alla batteria, Pino Palladino al basso, e poi fortunatamente me lo sono ritrovato sul disco. Andando però a scoprire i testi di Sugar Daddy, ho notato che effettivamente è una canzone da... fantastica! Yeah! Sesso spinto, dai, diciamolo pure. Allora, D'Angelo and the Vanguard con Sugar Daddy al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Disco firmato a quattro mani, ovvero Miles Davis e Robert Glasper, ma in questo disco di Miles Davis c'è veramente pochissimo. Credo che sia stata un'operazione commerciale tirata fuori dopo la pubblicazione della colonna sonora del film dedicato a Miles Davis da Don Cheadle, che ha coinvolto Robert Glasper come autore della colonna sonora. Naturalmente nella produzione della colonna sonora del film ci sono molti grandi artisti, sono stati coinvolti addirittura Herbie Hancock e Wayne Shorter. Invece poi qualche mese dopo viene pubblicato questo Everything's Beautiful, Robert Glasper, Miles Davis, un tributo a Miles Davis da parte di uno degli artisti, ecco, anche lui, abbiamo parlato di Kendrick Lamar e D'Angelo, anche Robert Glasper ha detto la sua negli ultimi anni. Ha portato l'ambiente del jazz proprio a sposarsi completamente con quello del contemporary R&B e dell'hip hop, trovando un suo percorso, un suo suono e anche un bellissimo contratto discografico con la Blue Note, etichetta che qui si associa alla Sony Columbia Records, che era l'etichetta di Miles Davis, ma anche la casa discografica che ha in distribuzione la colonna sonora di Don Cheadle. Credo di aver detto più o meno tutto. Hai detto tutto. Tra l'altro ha dichiarato Glasper che non voleva fare un disco di remix, no? Ma la sua idea era quella di mostrare come Miles abbia ispirato la gente a costruire nuova arte. Cito che ha detto: volevo comporre qualcosa dove si potesse prendere qualche sua idea, frullarla e tentare di mostrare l'influenza di Miles oggi. Sì, nell'album ci sono vari artisti che collaborano, tipo Hiatus Kaiyote, no? Sì, però la cosa che non avete detto, non vi siete espressi se vi è piaciuto o no questo disco, che non, è la cosa importante. Non completamente, perlomeno non come i dischi con gli Experiment, ma non sì, lo so. Molto, infatti, cioè, personalmente è molto deludente, mi aspettavo molto anche visto le collaborazioni, cioè Erykah Badu, Le King, Hiatus Kaiyote, Stevie Wonder, tantissimi ospiti, però un po' deludente. Un po' deludente. Qui comunque c'era la partecipazione di Lady Easy, formidabile vocalist, John Scofield alla chitarra, il brano era I'm Leaving You, firmato poi da Lady Easy e Glasper, quindi Miles Davis proprio non c'entra nulla. E da Robert Glasper, per chiudere la prima parte del soundcheck di oggi, quindi ultimo weekend, a grande richiesta da parte di Radio 24, a chiudere questa prima parte, niente, chiamiamo in causa il mio Marcus Strickland, dico il mio perché il disco Neil Novi a me è piaciuto tanto, continua a piacermi, continua a darmi soddisfazione, suona molto bene, ci sono delle bellissime idee e vedo Silvia Barba purtroppo che continua a fare delle espressioni che non molto mi piacciono. No, io non dico più nulla, lui ti retweetta, ormai siete amici, ti retweetta come se non ci fosse un domani, per cui per me va bene così. Ma scusa, perché a te non è piaciuto? Ma è un carissimo ragazzo, l'ho conosciuto, è molto bravo. Ma io ti sto parlando del prodotto, del disco, non della persona. Non ci sento nulla di nuovo. Non a caso il titolo. Non ha gli addominali di D'Angelo. Ecco, allora dai, buttiamola lì. Tromba, ragazzi, guarda, allora subiti. Mettetemi in mezzo. No, non ti mettiamo in mezzo, sei tu che te la vai cercando. Scusa, Silvia. Tromba, però ti assumi le tue responsabilità, perché ogni volta che io cerco di dire qualcosa a Silvia, con ironia e per prenderla in giro, c'è sempre qualche ragazza che scrive: ah, ma guarda questo qua come ti tratta, ti fai trattare così. Ti criticano, sì. Mi criticano. Però non sanno che tu mi vuoi un bene dell'anima. Non lo sanno, no. Però anche diciamolo. Tu sei molto amata. Davvero? Eh beh, vedi come ti difendono. Che bello. Non possiamo neanche più scherzare con te, Silvia. Grazie. Va bene, allora ti dedico Marco Strickland, te la sei cercata, con Gene Baylor. Il brano si intitola Alive. Chiudiamo la prima parte e torniamo subito dopo l'informazione di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Sempre operativi dal Groove Master Studio per la seconda parte del Soundcheck Radio 24 di oggi. A grande richiesta siamo tornati, pensavamo già di stare in vacanza, invece andremo in vacanza da lunedì. Voi andrete in vacanza, io invece mi dedicherò ai miei concerti, e anzi voglio salutare l'ingegnere del suono Riccardo Bomarzi, che è arrivato qui nello studio proprio per raccogliere un po' di strumentazione, visto che nei prossimi giorni saremo impegnati insieme, ma poi ti coinvolgo nel programma. Sai fare radio? Hai mai fatto radio? Ti sei vestito bene, con dei bermuda da ingegnere del suono. Perché gli ingegneri del suono mettono il bermuda anche se sei distante? Dimmelo. Perché siete sempre in bermuda? Perché siamo da guerra, da combattere, in mimetica. Questo è proprio lo stile Tony Soddo, ecco, questo è, possiamo definirlo così, uno dei grandi ingegneri del suono italiani, nostro amico, e quindi lo salutiamo, il grande Tony Soddo. bene, questo è il Soundcheck, Silvia Barba. Eccoci. E Francesco Tromba. Abbiamo adesso un'altra novità, devo dire per noi non è una novità, perché proponiamo e suoniamo i brani di questo ragazzo quando ancora li pubblicava su YouTube, e continua a farlo, perché se il successo internazionale lo ha ottenuto con questo sistema, non vedo perché dovrebbe cambiare la strategia anche adesso che è nella scuderia di Quincy Jones, giusto? È nella scuderia di Quincy Jones, sta attraversando i continenti con il suo tour, finalmente però esce un album. E di chi stiamo parlando? Jacob Collier, ci piace tantissimo, che musicista, che ragazzo, che voce, che mentalità, che eccellente producer, che grande regista, più di così che cosa posso dire? È vero, fa un po' paura allora. Fa un po', sì. Infatti fa un po' paura. No, era scioccante già quando a 15-16 anni proponeva i video a cappella, filmando tutte le parti, e quindi c'erano 6-7 Jacob Collier che cantavano tutto con arrangiamenti spaventosi. Oggi è impressionante perché ci ha fatto vedere che non solo canta bene, ma suona anche benissimo tutti gli strumenti. Il disco lo ha realizzato da solo e dal vivo, quindi non so che cosa potrà combinare senza il supporto di una band. Certamente avrà campionato, però insomma, gran parte del suono lo realizzerà dal vivo, e lo farà dal vivo in due appuntamenti in Italia. Dove? Sì, sarà ad Umbria Jazz il 13 di luglio e al Locus Festival il 16. Al Loco Rotondo. Sì. Ecco, tu andrai a vederlo? In realtà preferirei forse il Locus Festival, perché ancora non ci sono mai stato. Umbria Jazz già ci sono stato più volte, quindi... E quindi non è più una novità per te? No, preferirei cambiare posto. Beh sì, anche perché insomma ci sono dei festival che ripropongono spesso le stesse cose. Uno preferisce un po' girare, andare fuori, andare anche all'estero o a festival italiani dove... la programmazione è un po' più varia. Allora, Jacob Collier arriva al Soundcheck. L'album è stato pubblicato praticamente ieri, ma noi ormai già da diverse settimane vi proponiamo i singoli, perché è lui che ce li manda, e oramai noi abbiamo un network con una consegna diretta quotidiana da parte degli artisti. Jacob Collier al Soundcheck con Savior, naturalmente, ancora una volta, se la suona e se la canta. Soundcheck, il suono della musica. Jordan Rucky dall'album nuovissimo intitolato Clock, ma il singolo The Light noi lo avevamo già proposto, e questo è uno dei piccoli grandi meriti del Soundcheck. In tre stagioni, con 335 puntate realizzate, con quella di domani per chiudere anche questa stagione, un merito è senz'altro quello non solo di aver suonato delle cose, ecco, non voglio dire belle, bellissime, ma senz'altro piacevoli, di aver suonato cose alternative all'airplay delle altre radio, e soprattutto di aver scoperto in anticipo, come dei talent scout, artisti che adesso sono dei cavalli di razza della discografia internazionale, come Jordan Rucky, neozelandese. Noi ve lo abbiamo proposto durante la prima stagione del Soundcheck, quando ancora la sua musica si trovava soltanto ed esclusivamente attraverso internet, in Bandcamp o SoundCloud. Adesso invece è un artista accreditato, ha firmato un bel contratto discografico, vive a Londra, si diverte e e sarà in Italia prestissimo. Sì, il 30 di luglio sarà al Locus Festival, lo stesso giorno quindi in cui suonerà. Tutti al Locus Festival. Tutti al Locus Festival. Jacob Collier va al Locus Festival, sì. Snarky Puppy vanno al Locus Festival, sì. Jordan Raki va al Locus Festival. Sì. E praticamente questi anche del Andrea Locus Triana. Vanno tutti quelli che noi suoniamo vanno al Locus Festival. E ci andiamo pure noi allora al Locus Festival ad ascoltarli. A questo punto io mi domando perché troviamo un partner commerciale attraverso Radio 24 che mette un bel budget per organizzare il Soundcheck International Festival, la butto lì, no? Guarda no? Che non è una cattiva idea. È un'ottima Occhio, idea. Occhio, perché i desideri a volte si realizzano. È un'ottima idea. Così, Silvia, tu potrai invitare tutti gli artisti che più ti danno soddisfazione. Daresti uno spazietto, una rubrica a me a tromba. Guarda, noi ti portiamo quelli... Lontano. Tanto. No, è una bella idea. Beh, io l'ho Ideona. Buttata così. No, adesso affrontiamo l'estate, poi quando torniamo possiamo ragionarci. Bella idea. Tanto, voglio dire, sai che questa cosa del Soundchecker Play Music Award, che praticamente è soltanto il pretesto per celebrare il programma e anche per ringraziare gli artisti che abbiamo proposto, ha dato un buon riscontro non solo di pubblico italiano che ha mandato email e ha votato, ma soprattutto di molti ringraziamenti da parte degli artisti internazionali. Lo so, io e Tromba passiamo il tempo a rispondere a tutte le mail, ai messaggi e ai retweet, siamo veramente molto contenti, grazie davvero a tutti, non solo appunto a radioascoltatori ma anche agli artisti che ci retweetano e ci danno sì, visibilità. Grazie quindi anche a Radio 24 che ci dà sempre la possibilità in libertà di suonare ed esprimerci musicalmente nel migliore dei modi. Evviva! Evviva! Allora c'è solo una cosa che dobbiamo mettere a posto con Radio 24. Dimmi. E io lo dico, i podcast. La faccenda dei podcast, abbiamo fatto una bellissima riunione e toccherà organizzare bene la faccenda dei podcast, quindi ragazzi per favore non mandate più email, non vi lamentate per i podcast, lo sappiamo, nei nostri podcast la musica viene tagliata, non dipende da noi, lo voglio dire ancora una volta, ma ci stiamo organizzando per poter creare un podcast all'altezza del nostro programma. Eh sì, perché senza musica è tutto ovviamente quasi inutile, quasi inutile, quasi inutile. Va bene, andiamo avanti. Che dite, vogliamo ascoltare Jordan Raki ancora? Sì. Facciamolo, Jordan Raki, il brano si intitola Snitch, è quasi il titolo di un film. Can you hear me? Mi. Soundcheck, il suono della musica. E anche Lauren Bula è stata una che abbiamo scoperto noi, possiamo prenderci questo merito perché l'abbiamo lanciata ancora prima delle case discografiche, potremmo dire, no? Sì, è vero, era ancora con una etichetta indipendente prima di firmare il contratto con una multinazionale e noi già avevamo sentito che c'era qualcosa di forte in questa ragazza inglese che ha insegnato musica e che oggi è un'artista molto richiesta in giro per il mondo, anche se fa un po' fatica a uscire dalla sua cameretta, è vero Silvia? È vero, soprattutto nell'ultimo album ha dichiarato in una bellissima intervista dove si è aperta ai suoi fans, al Guardian, di aver avuto molta difficoltà nella sua vita a vivere questo ruolo di grande artista, ma anche con dei problemi importanti, un matrimonio in età molto giovane, il divorzio, un po' di manie di persecuzione, un po' di forse di bipolarità, insomma, ma si è dichiarata con molta onestà, tanto che i suoi fans hanno apprezzato questo suo atteggiamento molto onesto di presentarsi a loro e a me piace molto, è molto elegante, è una ragazza davvero molto particolare che ribadisce sempre le sue origini, anche nel modo di abbigliarsi, elegantissima, poi è una cara amica di un mio amico per cui... L'ho conosciuta anche per quest'altro motivo. Lauren Bula ha realizzato 3 album. Il primo, quello famoso con aperto da Green Garden, il singolo. Sì. Poi addirittura lo stesso album è stato riproposto in chiave orchestrale con il supporto della Metropole Orchestra e infatti qui abbiamo sentito la versione di Green Garden con Lauren Bula e la grande orchestra e adesso da pochissimo viene pubblicato un album album nuovissimo intitolato The Dreaming Room, un album molto bello, molto particolare, molto pensato secondo me, scritto molto bene. Certo, ci si aspettava forse da Lauren Vula un album forse più pop in qualche modo dopo il grande successo che ha ottenuto, invece lei è stata, come dire, integralista musicalmente, ha fatto la sua musica ancora una volta. E ha fatto bene, perché è un disco molto elegante e devo dire ben riuscito. Tra l'altro sta ottenendo il successo che merita e quindi vuol dire che ha puntato il suo obiettivo in maniera eccelsa. Allora, io per presentarvi questo album ho scelto Show Me Love, che è proprio una ballata, un bellissimo arrangiamento per una melodia molto efficace e un'interpretazione eccellente da parte di Lauren Vula qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Next, la voce di Alan Hampton da Fun Slow Ride, brano che si è aggiudicato il Soundchecker Play Music Award come best song per questa stagione, tra l'altro in una categoria molto difficile, perché per esempio fra i brani c'era anche Little Bird di Lila B. Ali, un pezzo che mi ha fatto sognare per tutta la stagione. E allora approfitterei anche della presenza qui nel Groovemaster Studio dell'ingegnere del suono Riccardo Bomarzi, che conosce molto bene questa stanza, e anche perché è l'artefice, è l'uomo che per centinaia di ore ha lavorato su questo progetto, e quindi ti voglio ringraziare. Grazie a te Giorgio, è un piacere. Ti vedo un po' ciancicato, un po' provato, raccontaci un po' in retroscena, perché noi adesso vediamo le interviste, le pubblicazioni all'estero eccetera, ma tu che ci hai lavorato per tanto tempo ci puoi raccontare davvero quanta fatica c'è dietro questo progetto? La fatica è veramente tanta. La cosa che devo dire è che, a differenza di altre produzioni, comunque sia è stata una produzione molto curata e tutto più o meno è filato liscio, nel senso che spesso si tende a fare tante prove e poi abbandonare tante cose. Invece questa produzione è stata molto studiata bene, abbiamo registrato tanto, abbiamo buttato via tante cose, ma il concetto di base è rimasto sempre solo uno, è stata una cosa pazzesca, artisti formidabili. Sono arrivate le registrazioni dall'America, io sono scoppiato, cioè sono saltato in piedi sul divano, c'è una foto che ho mandato a Giugge che ero in piedi sul divano e saltavo. Disco bellissimo. Sono arrivate nel senso che gliele ho spedite io proprio da New York in tempo reale. Finivo la registrazione con Alan Hampton, Sasha Alvazandani, Joanna Teeters e gli mandavo subito le take originali dagli Stati Uniti e lui montava immediatamente. È stato un po' come lasciare, che ne so, un nipote, no? Che lo vedi dopo due anni. È cresciuto in maniera esponenziale, pazzesco. In due settimane è cambiato tutto. Io ti volevo chiedere invece qual è stato dal tuo punto di vista lo strumento con cui hai avuto più difficoltà e anche la canzone, la traccia con cui hai avuto più difficoltà. Lo strumento più difficile secondo me da registrare in questo disco è stato il contrabbasso. Per quale motivo? Perché il contrabbasso ha delle caratteristiche particolari. Prima di tutto suona più in basso di tutti e quindi è facile fare un errore nella ripresa. Poi si deve sentire la definizione e la nota, che sono due cose che sono un po' una l'antitesi dell'altra. Mm-hmm. E quindi diciamo che siamo stati abbastanza soddisfatti dei nostri contrabbassi. Ma io mi ero impuntato, no? Non volevo utilizzare il basso elettrico, volevo il suono del contrabbasso. E infatti credo che il suono del contrabbasso abbia regalato comunque qualcosa di magico e di speciale, perché alla fine si basa di un disco, stiamo parlando di un disco che utilizza un trio classico di jazz, quindi batteria vera, contrabbasso, pianoforte, Rhodes, Fender e Wurlitzer, quello che è, e poi con l'impianto delle voci e qualche special guest. Alla fine è un disco, come è stato definito da Rob Dope, l'etichetta che adesso l'ha messo in distribuzione, Contemporary Old School, e questa cosa mi piace tanto. Senti, adesso ce lo puoi dire, com'è lavorare con Gegé, al di là del fatto dell'emozione di... perché vi vedo che vi guardate, siete molto complici, però secondo me non è facile lavorare con lui. Anticipo che con Riccardo ormai c'è quasi un'antica amicizia, perché ha iniziato a lavorare con me come ingegnere dei live, poi siamo entrati in studio e adesso continuiamo a fare tanti concerti. Allora, lavorare con Gegé è stato secondo me molto formativo, quindi io sono molto felice di aver fatto questo percorso. Io provengo da un background provinciale, no? Vengo dalla provincia di Viterbo, da Sutri in particolare, e insomma ero abituato a vedere artisti comunque anche di un certo livello, nel senso che capitavano in zona, però fare il tour è stata per me un'esperienza veramente nuova, perché ti confronti col resto del mondo. È difficile, perché a me sembrava fosse una cosa più semplice, no? Dicevo, vabbè, tanto devo andare lì, devo fare l'audio, mi impegnerò tantissimo. E invece si trovano delle situazioni veramente al limite del sia della stanchezza fisica, perché poi uno prende gli aerei, prende i voli, gli si attappano. Sì, questo ho dedicato quasi un programma televisivo, a una puntata al lavoro più pericoloso del mondo, che è quello del musicista. Poi ce ne sono altri, ma per me è quello. Va bene, grazie Riccardo. Purtroppo dobbiamo chiudere, tanto noi partiamo, poi possiamo raccontarci le nostre cose in viaggio. Io ringrazio Silvia Barba e Francesco Tromba, tanto ci vediamo domani sera, perché chiudiamo la stagione insieme, no? C'è la puntata della domenica dalle 19:15, quella più jazz. Quindi, mio caro Bomarzi, vuoi ascoltare la voce della tua preferita? Sì. Joanna Titters. Volete salutare voi, ragazzi? Sì, buonasera a tutti, grazie Gegé. Grazie a tutti gli ascoltatori. The Green Doctor, Joanna Titters, Fanslow Ride, a domani.